Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Albero d'argento, oh lucenti fiumi dell'anima, in un cabaret di Harlem suonano 6 abili musicisti jazz, una ballerina dagli occhi sfacciati solleva in alto la sua veste dorata, oh risonante albero, oh lucenti fiumi dell'anima, erano forse gli occhi di Eva nel paradiso perduto solo un po' troppo sfacciati? Era forse Cleopatra splendida nella veste dorata? Oh albero lucente, oh argente i fiumi dell'anima, in un turbinante cabaret suonano 6 abili musicisti jazz. Quella che avete appena sentito, dal titolo Jazzonia, è una poesia del drammaturgo afroamericano Langston Hughes, che negli anni 30 a New York, nel cuore di Harlem, sta vivendo il magico momento del jazz. Ascoltare il jazz è come innamorarsi. Non bisogna cercare di capire, ma soltanto intuire una vibrazione e lasciarsi andare. La storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati è puro istinto e improvvisazione. Dalle strade di New Orleans alle bettole di Chicago, dalla cinematografica Los Angeles fino alla frenetica New York, per poi attraversare gli oceani e invadere il mondo. Il percorso di questo genere musicale vive di emozioni forti proprio come una delle sue melodie. E ogni melodia, come ha detto Louis Armstrong, contiene i ricordi di chi la inventa. Quando suono, penso a quei momenti del passato e dentro di me nasce una visione, una città, una ragazza lontani nella memoria, un vecchio senza nome incontrato in un posto che non ricordo. I suoni che escono dalla tromba di un uomo sono parte di lui. L'origine etimologica della parola jazz non è chiara, anche se intorno al suo significato, come succede sempre, sono cresciute alcune leggende. Dei critici, ad esempio, sostengono che si riferisse al nome di un ballerino creolo, il cui nome era Jazzbo. In ogni caso, non c'è nulla di certo, se non che ogni aneddoto al riguardo serve ad alimentare il mito. La contraddizione è l'anima del jazz. Colto ma di origini popolari, improvvisato ma anche pensato, raffinato da risultare incomprensibile, ma anche istintivo e carnale come nessun altro genere. Si dice spesso che il jazz ha fatto in 100 anni il viaggio che la musica classica ha fatto in 500. È una sintesi della sua indole protesa al cambiamento, della sua incapacità di fermarsi, del suo continuo movimento. Il chitarrista Eric Clapton sostiene che il grande musicista sia quello che sa interpretare in modo personale un brano blues e che sa trasmettere con la giusta intensità un pezzo jazz. Max Roach, il geniale percussionista che è stato uno dei primi a codificare lo stile della batteria bebop, è convinto che il jazz non morirà mai. Io vedo il jazz come un grande fiume sempre in movimento. Dunque ogni generazione può portare qualcosa di nuovo. Tuttavia, ogni generazione è in un certo senso obbligata a guardarsi alle spalle. Quel che conta è la continuità col passato, piuttosto che la rottura. Il jazz è una musica democratica, che tiene conto degli apporti individuali per arrivare a una creazione collettiva. Tutto parte dal blues, con i suoi suoni provenienti dall'Africa. E quando l'improvvisazione gradualmente si sposta dalla voce umana allo strumento, ecco che nasce il jazz. Impossibile tracciare una storia dettagliata, tante sono le sfaccettature, gli avvenimenti e gli interpreti. E poi, un racconto filologico non si scontrerebbe forse con la vera natura disordinata del jazz? Sicuramente sarebbe d'accordo anche il nostro primo protagonista di oggi, un uomo che della musica ha fatto la sua vita. Il suo nome? Duke Ellington. Duke Ellington. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Duke Ellington. I have a band. Il jazz o lo odi o lo ami, senza mezze misure. Perfino nel celebre cartone animato targato Walt Disney, Gli Aristogatti, del 1970, tutti quanti vogliono fare il jazz. Duchessa, te presento il meglio jazzista del mondo. Oh, Sono lusingata ad incontrarla, Monsieur Scott. Parimenti, duchessa. Sei un fenomeno. Lei è incantevole e la sua musica è così... così diversa, così eccitante. Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo. Ehi, questo gattino ha sgamato subito. Che vuol dire sgamato? Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cia, cia, cia. Lo stesso prurito non te dà. Nascere con la pelle nera nella Washington del 1899 significa partire un passo indietro. Ma si sente già da come piange appena uscito dal grembo materno che Edward Kennedy Allington ha la grinta di chi diventerà qualcuno. Sia suo padre James che sua madre Daisy sono pianisti. Ma mentre papà suona soltanto per diletto, la mamma ha anche una bellissima voce che le permette di mantenersi con la parlor music, vale a dire quel genere popolare che fa da sottofondo alle conversazioni da salotto dell'alta società. Il ricordo di mia madre che mi teneva tra le braccia e mi cullava cantandomi una delle sue canzoni è ancora vivissimo. Mi ha accompagnato per tutta la vita. Non riuscivo ad addormentarmi se non c'era lei al mio fianco col suo sorriso e il suo sguardo dolcissimo. Quella degli Allington è una famiglia allargata che accoglie spesso anche le numerose zie e i nonni materni. Il nonno, in particolare, è una figura fondamentale per il piccolo Edward perché in qualche modo gli fa anche da secondo papà, visto che il suo è spesso fuori. Facendo il maggiordomo, passa le giornate presso i suoi padroni, come il dottor Middleton Cuthbert, un importante fisico che di lui si fida ciecamente. E in effetti è proprio grazie alla sua grande professionalità che James arriverà ad essere addirittura maggiordomo alla Casa Bianca. Nell'enorme palazzo in stile vittoriano situato al numero 1600 di Pennsylvania Avenue abita dal 1901 al 1909 il 26esimo presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, detto Teddy. Controverso e amatissimo, interventista con la sua politica del grande bastone, ma in grado di conquistare un Nobel per la pace grazie alla sua mediazione nella guerra tra russi e giapponesi, il suo volto è uno dei quattro scolpiti sul Monte Rushmore, insieme a quelli di George Washington, Thomas Jefferson e Abramo Lincoln. Un giorno, con la complicità innocente dei suoi colleghi, papà James riesce a portare il piccolo Edward a vedere le stanze da cui si governa il mondo. Ero quasi spaventato di trovarmi lì. Noi venivamo da una famiglia modesta. Non avevo mai visto mobili del genere. Papà mi ha preso per mano e mi ha fatto vedere tutte le sale. C'erano tavoli, divani, specchi e poi i quadri. C'erano dei quadri meravigliosi. Edward Allington ha una spiccata sensibilità per le cose belle, appresa dalle frequentazioni dei suoi genitori, e un'eleganza naturale che con il tempo affinerà. In casa si mangia bene, si parla un inglese impeccabile, si amano le buone maniere. Lui è un vorace lettore, soprattutto di western e detective stories. I racconti di Sherlock Holmes sono i suoi preferiti, ma la sua vera passione è lo sport, baseball, football, corsa. È veloce, forte e spavaldo. Gli piace fare lunghe passeggiate con il suo cugino Sonny, tra una visita ai parenti e un biscotto da intingere nel tè di qualche moderna pasticceria dal sapore francese. Oggi, pensando a Duke Ellington come a una leggenda del jazz, è difficile credere come si sia avvicinato al piano per la prima volta. Eppure, quando il destino vuole dare un segno, sa come essere creativo. Edward è in strada, con i soliti amici e la palla da baseball in mano. C'è il solito ragazzino che fanno giocare più che altro per compassione, perché a detta di tutti è davvero negato. Quando è il suo turno di battere, sbaglia la forza e lancia la mazza che va a colpire in testa il povero Edward. Tutti corrono immediatamente a vedere come sta, nulla di grave, ma per sicurezza lo accompagnano a casa. La mamma si spaventa così tanto che gli proibisce di giocare ancora, ma sa che ci vuole qualcosa per tenerlo occupato. Niente di meglio che il pianoforte. All'inizio non mi piaceva per niente. Mi annoiavo. Preferivo disegnare. Non ero male come pittore e ho continuato a dipingere per anni e mi hanno dato anche la borsa di studio per studiare arte all'università. Però non l'ho mai usata, perché a quel punto avevo capito che suonare mi piaceva e come. Anzi, suonare era tutta la mia vita. È evidente che Edward ha un talento speciale, perché presto, oltre che eseguire, incomincia a scrivere musica. Ormai ci vuole un insegnante che perfezioni la sua tecnica, l'esperienza di Mamma Daisy non basta più. Lei può soltanto sostenerlo e incoraggiarlo. Qualche volta invita le sue amiche per farle assistere al concerto del figlio. Lui ne è felice perché da loro può imparare le buone maniere, quel gusto che prima ancora di essere borghese è femminile. Ma è a scuola che per la prima volta il giovane Edward capisce cosa significa essere davvero signorile. Quando incontra Edgar McEntree, un ragazzo amante della bella vita che passa da un party all'altro, molto popolare in città. I due fanno amicizia e perché anche Edward riesca ad andare alle feste, gli insegna a vestirsi in modo impeccabile. Cravatta, scarpe lucide e abiti all'ultima moda. Edward, che è alto e con un modo di fare aristocratico, impara in fretta. Ed è così che Edgar, un po' per gioco, incomincia a chiamarlo Duke, il duca, quel nomignolo con cui diventerà famoso. Edgar conosceva la gente giusta, quella che contava per entrare nel giro. È stato lui che, per la prima volta, ha convinto alcuni signori a farmi suonare alle loro serate. Mi voleva bene, non aveva interessi, semplicemente credeva in me. Duke Ellington adora suonare ai party, non solo per la nobiltà dell'arte, ma anche per le ragazze che sempre più spesso lo cercano, diventando una dopo l'altra le conferme che è davvero questo il suo destino. Se il maestro Henry Grant gli dà lezioni private e gli fa conoscere teoria e armonia, il lato formale della musica, insomma, sono i musicisti più grandi ed esperti che va a sentire in città, a Philadelphia e ad Atlantic City, dove passa i mesi estivi con sua madre e che gli insegnano i trucchi del mestiere. Il ragazzo di Washington, che sembra altissimo anche quando è seduto al pianoforte, grazie al suo talento, allo studio e alla contaminazione, sta scoprendo di avere uno stile tutto suo, fino a convincere tutti che non è semplicemente dotato, ma che è un vero e proprio genio della musica. Il duca lascia definitivamente la scuola e passa le notti a fare la colonna sonora di Chi si vuole divertire, mostrando di avere un animo più che da interprete, da intrattenitore. Non mi limitavo a suonare. Io, il pubblico, lo volevo coinvolgere. Facevo battute, scherzavo. Mi rendo conto che sono sempre stato un buon trascinatore. La sala da biliardo di Frank Holiday è il più divertente ritrovo di artisti, musicisti e personaggi stravaganti della città. C'è un grande pianoforte in un angolo della stanza, con una lampada che serve soltanto a illuminare i tasti. E la gente che si alterna al piano come in una staffetta virtuale, in cui l'importante è che nell'aria ci siano sempre le note dal ritmo vorticoso su cui chi è in pista si può scatenare. L'atmosfera è rilassata e di grande sperimentazione. Chiunque può provare una nuova strofa o improvvisare un nuovo pezzo. Lewis Thomas, un pianista ragtime di una certa reputazione nella zona, offre a Duke di fare concerti con lui e la sua band a patto di imparare in poco tempo The Siren Song. Duke ci mette meno di un giorno. All'ora di cena la sa già fare, con un'impronta così unica che lascia tutti senza parole. Inizia la tournée. Un posto diverso ogni sera, donne, alcol, ingaggi non sempre decenti. Per esempio, quella volta che si ritrovano ad accompagnare lo spettacolo di un mago, con il pubblico molto più stupito da un coniglio che esce dal cilindro, piuttosto che dalla potenza di quel ritmo. Pazzesco. C'era la stanza piena di bambini che aspettavano solo di capire i trucchi del mago. Incredibile. Non avevamo idea del perché ci avesse chiamato per accompagnarlo. Forse era semplicemente un mago che voleva sentire della buona musica. Duke è sveglio, un ragazzo giovane ed entusiasta che capisce in un baleno una regola fondamentale. I soldi non li fa il musicista, ma l'impresario. Dopo un furioso litigio con Lewis Thomas, molla la band, va a vivere da solo. Il poco denaro guadagnato gli consente un'indipendenza che più che un'esigenza è una forma di rispetto nei confronti dei suoi genitori che lo hanno sempre assistito. E fonda così un'agenzia tutta sua, che già quando apre conta 5 band sotto contratto. l'intraprendenza non gli manca. Capita che per lo stesso spettacolo, quando qualcuno lo chiama perché lo organizzi, riesca a fornire scenografie e musicisti, senza privarsi del piacere di suonare lui stesso una volta arrivato nel luogo della festa. Il brivido che prova è lo stesso che racconta Novecento, il pianista del film La leggenda del pianista sull'oceano, diretto nel 1988 da Giuseppe Tornatore. Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Grazie al suo intuito per gli affari, Duke in pochi mesi si compra una Cadillac e una casa di 10 stanze nella quale va a vivere con sua moglie Edna Thompson, la ragazza che ha appena sposato e che conosce da sempre. Non male per un ragazzo che non ha ancora compiuto 21 anni, per di più in un'epoca in cui essere neri in America significa partire molto più svantaggiati rispetto ai bianchi. Ma la musica è più forte del denaro, anche quando il denaro è tutto. Duke vibra, vuole stare sul palcoscenico. Quando James P. Johnson, il grande compositore newyorkese, è a Washington per un concerto, gli amici spingono perché lo avvicini e gli faccia sentire come suona Carolina Shout, uno dei suoi brani più celebri. Johnson capisce immediatamente che quel ragazzo dal viso paffuto e il sorriso sempre stampato in faccia ha talento da vendere. Duke, dal canto suo, adora quel ragtime così diverso dal solito, pieno di vita. È totalmente nuovo e vuole farne parte. Quella musica cominciava a far parlare di sé. Già negli ambienti puritani c'era qualcuno che l'accusava di essere volgare, sessuale, decadente. E io tutto questo lo adoravo. Sarà perché è uno che si stanca presto, o forse perché non è facile per uno come lui riuscire a contenere l'energia, ma Duke, parlando con i ragazzi delle band che arrivano da fuori città, capisce che la capitale degli Stati Uniti, con la sua middle class che arrossisce quando qualcuno si spinge oltre un foxtrot, non sarà mai la capitale del ritmo. Harry gli racconta il dolore del blues che i poeti di St. Louis sentono affiorare dalle acque del Mississippi. Bob racimola qualche soldo in più facendo affari negli angoli più malfamati di Chicago. Woody ama ogni sera una donna diversa nelle bettole di New Orleans. E sopra qualsiasi cosa c'è New York, dove a parlare è solo la musica. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nella New York degli anni 20, dove un giovane di molte speranze è appena arrivato da Washington per fare il musicista. Si chiama Edward Ellington, ma tutti lo chiamano Duke, il duca per la sua eleganza, sia nell'abbigliamento che nei modi. Grazie a uno spiccato senso per gli affari, ha intuito che fare l'impresario per le band è molto più remunerativo che suonare. È arrivato a guadagnare fino a $200 la settimana, una grossa somma per l'epoca. Ma adesso sente che tutto ciò che vuole è stare sul palcoscenico con la sua orchestra. Otto Hardwick e Roland Smith alle ance. Arthur Wetzel e Bubber Miley alle trombe. John Anderson, trombone. Elmer Snowden, banjo. E infine lui, Sonny Greer, il grande amico di Duke. Il jazz è come l'amore, non si può descrivere. Bisogna sentirlo. E proprio come l'amore, quando ce l'hai, non ne puoi fare a meno. Louis Armstrong ha detto che se chiedi che cos'è il jazz, non lo saprai mai. Lester Bowie lo definisce uno stile di vita. Per George Gershwin è la vita stessa a essere come il jazz. È meglio quando si improvvisa. Deve essere stato tutto questo e molto altro ad avere spinto Duke a New York, la città dove in una notte può succedere di tutto. È un giorno qualunque, in un mese qualunque, in un quartiere qualunque. Una macchina nera percorre la strada bagnata dalla pioggia della serata e illuminata da pochi lampioni, mentre dai tombini esce un fumo grigio che rende l'atmosfera cupa e un po' inquietante. Un uomo, lungo soprabito e cappello, si è seduto sul gradino di una chiesa e ha avvolto una bottiglia di whisky in un sacchetto di carta. Adesso, cercando di non dare troppo nell'occhio, beve a collo. C'è il proibizionismo e il contrabbando ha fatto la fortuna dei malavitosi. Qualche volta, come succede con i bambini, proibire significa ottenere il risultato contrario. Ed è così che in America, nel periodo in cui l'alcol è vietato e il puritanesimo imperante, in molti vivono sulla soglia della legalità, dando vita a quell'immaginario che siamo abituati a vedere nei film noir. Gangster, belle donne, sbornie, inseguimenti e notti in bianco. Il fascino del periodo è innegabile e perfino la violenza scatenata dalle vendette tra i boss e rivali ha acquisito nella vasta letteratura sul tema un retrogusto romantico. Gilet, bretelle, scarpe bicolore e completi gessati per gli uomini, abiti di lustrini, cappellini e labbra rosso fuoco per le donne. Tutti abbiamo in mente le figure che ruotano intorno al gangster Al Capone, pericoloso ma ormai mitico criminale simbolo della corruzione e dell'illegalità, che ordinando un omicidio dietro l'altro anima Chicago. Se di giorno ogni cosa sembra scorrere nella normalità, con il buio ogni cosa è possibile. Il jazz, che esce dalle finestre dei nightclub, testimoni di mille storie, è un'unica immensa colonna sonora. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO. Duke Ellington cerca ingaggi per suonare nei nightclub di New York con la sua band. Non ne può più di ascoltare e basta battendo il tempo col piede, vuole salire sul palco. Ma come la vita gli ha già dimostrato, la determinazione spesso viene premiata. E nel 1923 arriva il primo concerto importante in uno dei più eleganti locali di Harlem, uno di quelli in cui i neri lavorano e i bianchi si fanno servire, trattandoli con una certa superiorità. La voce di questo divertente ragazzo venuto da Washington si sparge presto e le serate si moltiplicano nei club della città dove lui suona. È una vita difficile quella del musicista per gli orari e per la fame. Le paghe sono misere e i soldi finiscono in fretta. Non si mangia tutti i giorni e quando c'è qualcosa di solito si divide. Duke, tra l'altro, è incredibilmente generoso. Un giorno trova per terra $15 e li spende nell'acquisto di biglietti per Washington per tutti. Anche quando scappi, una volta lontano, la tua casa ti manca come il luogo più speciale del mondo. Ma la nostalgia svanisce in una notte, quando al Kentucky Club di Broadway, confuso tra la folla e nascosto dal fumo delle signore, c'è un uomo con in mano un piccolo taccuino che sta per cambiare la vita di Duke Ellington. Nel destino del duca c'è il grande produttore Irving Mills. Irving Mills. Se prendete in mano la copertina di un vecchio album di Cab Calloway, Raymond Scott o Benny Goodman, alcuni tra gli indimenticabili miti del jazz, noterete che accanto al loro volto compare anche il nome di Irving Mills come coautore delle musiche. Questo è vero solo in parte. Semplicemente, in seguito a regolare contratto, il 50% dei diritti spettava alla gente. Nessuno si è mai lamentato. Sapevano che in fondo mi dovevano moltissimo e ci tenevano a ricompensarmi anche così, mettendo il mio nome in copertina di fianco a loro. Irving adora la musica fin da quando da bambino, figlio di una famiglia ebraica di New York emigrata da Odessa, Russia, interpretava con passione i canti tradizionali. Siccome il papà muore quando ha solo 11 anni, sia lui che suo fratello Jack, maggiore di 2 anni, devono lasciare la scuola e andare a lavorare. Se ne stanno tutto il giorno in un angolo della strada a vendere giornali, ma il sogno di Irving resta la musica. Capisce che anche lui può avere una possibilità quando lo assumono come cameriere presso lo Shanley's Restaurant, uno dei più raffinati di New York, che si trova vicinissimo al distretto dei teatri, Broadway. È qui che incontra attori, attrici e star del vaudeville, il varietà più in voga del momento. Ed è sempre qui che un impresario gli propone di cantare alla radio. Da questo a selezionare a sua volta i cantanti, il passo è breve. Nel frattempo arriva anche l'amore. Mi ero trasferito a Filadelfia con mia mamma e mio fratello, e poi in Pennsylvania. È lì che ho incontrato mia moglie. Dopo una settimana le ho chiesto di sposarmi e lei ha detto di sì. Un matrimonio durato più di 60 anni e da cui sono nati 7 figli. Quando l'esperienza come talent scout è solida e una piccola somma di partenza è stata accumulata, Irving ha voglia di spiccare il volo. Ed è così che, determinato e intraprendente, mette in piedi con suo fratello Jack l'etichetta Mills Music per scoprire i talenti del blues. È una scelta lungimirante. A colpi di $20 a pezzo, Mills archivia decine di composizioni, soprattutto perché i musicisti, tutti squattrinati come Duke, vedono quei $20 come un incentivo non trascurabile. Dal 1919, data di fondazione, al 1965, quando venderanno, produrranno centinaia di canzoni, diventando la più grande casa discografica indipendente del mondo. Qualcuno non si fida di quel giovane bianco di Manhattan dall'aria sofisticata. Cootie Williams, per esempio, il famoso trombettista che più tardi si unirà all'orchestra di Duke Ellington. Durante una serata in un club, suona un pezzo nuovo e prende in giro Mills, dicendo al pubblico che non ha certo bisogno di lui come gli altri. Salvo poi, anni dopo, supplicarlo di prendersi un suo brano e sentirsi rispondere «Non mi serve, possiedo già tutto il blues». D'altra parte, Irving Mills è fatto così. Pacifico e idealista, ma pragmatico e con piglio deciso per la sua capacità di far suonare insieme bianchi e neri in un'epoca in cui la sola vicinanza tra loro è guardata con sospetto. È stato soprannominato l'Abramo Lincoln della musica. Non ho mai capito il senso delle etichette, tanto meno quella di nero o bianco. Io ero un agente e cercavo di trovare gli ingaggi per i miei musicisti, bianchi o neri che fossero. Loro suonavano e guadagnavamo tutti. Solo questo mi interessava. Irving Mills ha tanti contatti in città. È così che funziona il suo lavoro. Una sera lo chiama il proprietario di un locale, il Kentucky Club, situato sulla 49esima strada, tra la 7ª strada e Broadway. Ha ingaggiato a suonare una piccola band di Washington, il cui leader, Duke Ellington, sembra avere molto talento sia come musicista che come performer. Ma vuole sincerarsi attraverso l'intuito di Mills di avere fatto la scelta giusta. Di quei ragazzi si parla bene, ma sono ancora una scommessa. Mills accetta l'invito. Non è solo la musica a convincerlo, ma anche la promessa di un po' di alcol gratis, in questi tempi in cui si trova solo di contrabbando. Di solito ascolta un po', prende qualche appunto e lascia il suo biglietto da visita in camerino. Ma questa volta è diverso. Appena il Duca e i suoi accennano le prime note, è impossibile non lasciarsi travolgere. Quando non sai cos'è, allora è jazz. Harry, destini incrociati. A destini incrociati siamo alla fine degli anni 20 a New York e due giovani stanno unendo i loro talenti per entrare nella storia. Il primo si chiama Duke Ellington, fa il musicista e viene da Washington, ma è approdato in città in cerca di ingaggi per lui e la sua band. Ne ha trovati alcuni in diversi club di diversi quartieri, ma ancora non riesce a spiccare il volo davvero. Può aiutarlo solo una persona, Irving Mills, il fondatore di una casa discografica che sta estendendo il suo giro di clienti a vista d'occhio. E una sera, quando al Kentucky Club di Broadway Mills vede quell'orchestra strampalata sul palcoscenico, decide che sarà la prossima a essere messa sotto contratto. Finito il concerto, Irving è venuto da me a farmi complimenti. Mi ha chiesto chi era il nostro agente e io gli ho risposto che facevo tutto io, perché mi ero fatto una certa esperienza con gli affari quando stavo a Washington. Lui allora mi ha detto che non si può fare entrambe le cose. O si suona, o si pensa a vendersi. Irving Mills è un uomo di marketing che precorre i tempi e guarda già in una direzione molto lontana. Convince Duke ad affidargli la gestione organizzativa ed economica e diventa il suo primo produttore. Compra a suon di dollari i suoi pezzi meglio riusciti e gli fa registrare per la prima volta nella sua vita un vero disco. Duke, nel frattempo, finalmente libero dalle incombenze burocratiche, può mettere a punto quello stile di cui già si sentono i semi da tempo. Il cosiddetto stile giungla, così chiamato perché i temi e il timbro orchestrale cercano di evocare un'atmosfera esotica che ricordi la giungla africana. brevi tournée, ingaggi, sedute di incisione. La collaborazione tra il giovane nero di Washington e il ragazzo bianco di Manhattan si intensifica giorno dopo giorno, finché uno non può più fare a meno dell'altro. È un rapporto tra due esseri umani che ha quasi il peso di una svolta sociale e politica, in un periodo in cui alle persone di colore non è quasi permesso parlare con chi non lo è. Ma un'energia nuova è nell'aria e parte da Harlem. Gli afroamericani stanno dando vita a un movimento culturale che tocca tutte le forme d'arte, letteratura, teatro, musica, pittura, danza. È il Rinascimento di Harlem, una definizione nata in seguito alla pubblicazione dell'antologia di racconti di Hélène Locke, intitolata The New Negro. Langston Hughes si dedica alla poesia jazz. Il sottofondo non può che essere uno. Nel jazz moderno, essi ascoltarono qualcosa di ribelle ed innominabile che parlava per loro, e le loro vite conobbero un Vangelo per la prima volta. Era più che una musica, divenne un'attitudine di vita, un modo di camminare, un linguaggio e un costume. E questi ragazzi introversi, vagabondi emotivi di una guerra che erano stati troppo giovani per combattere o in cui persero la loro innocenza, che non erano mai appartenuti a nessun luogo prima di allora, ora finalmente si sentivano da qualche parte. Mentre la Savoy Ballroom, tempio dello swing sulla Lenox Avenue, viene immortalata in una canzone, Stomping at the Savoy, all'Apollo Theater le ballerine di burlesque intrattengono i clienti con sensualità e ironia. È su questo palco che molti personaggi del Rinascimento di Harlem iniziano la loro carriera. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, tra gli altri. Ma c'è un luogo che ha una magia speciale. È il sogno di Duke Ellington e si chiama Cotton Club. Irving Mills, fin dal momento in cui gli ha stretto la mano, diventando ufficialmente il suo produttore, ha promesso a Duke Ellington che prima o poi lo porterà al Cotton Club. Io un po' ci speravo, ma sapevo che era impossibile. Quando entravi al Cotton Club, svoltavi per la vita, diventavi una star. Il Cotton Club è il ritrovo chic nel cuore di Harlem, dove i neri non possono entrare, ma passando dalla porta sul retro possono salire sul palco e dare il via al loro magico jazz. Il campione di pesi massimi Jack Johnson aveva aperto il Club Deluxe nel 1920, in pieno proibizionismo, finché Oney Madden, un noto gangster contrabbandiere di bevande alcoliche, si impadronisce del club nel 1923 mentre sta scontando una pena a Sing Sing e gli cambia il nome in Cotton Club. Per le ragazze del coro i requisiti sono tre. Devono essere alte, ambrate e fantastiche, che tradotto in parole povere significa non meno di 1,60 m, pelle chiara e non più di 21 anni di età. Gli spettacoli riproducono un immaginario razzista nel quale i neri sono ritratti come selvaggi in giungle esotiche o come schiavi nelle piantagioni dell'America del Sud. L'atmosfera è quella raccontata dal film Cotton Club, diretto da Francis Ford Coppola nel 1984. I never have figured you out. It's funny, I know all about you. I can imitate your walk, the way you play your cornet. Tutto questo è quello che sta sognando Duke Ellington quando una notte, rientrando in casa da un fine settimana di concerti fuori città, riceve una telefonata dal suo agente Irving Mills, l'uomo che ha creduto in lui, l'uomo che sta per cambiargli la vita. È il 1927, le donne si tagliano i capelli a caschetto e impazza il Charleston. Mills ha appena sentito che anche il Cotton Club ha bisogno di aria nuova e sente che questa ventata di freschezza può chiamarsi soltanto Duke. All'audizione, Ellington e la band arrivano con 2 ore di ritardo. Ma il destino è con loro, perché Harry Block, il manager del locale, è ancora più in ritardo. Non riescono a finire la prima canzone, che sono già stati presi. Irving Mills non si trattiene e con uno slancio più emotivo che professionale corre sotto il palco per abbracciare Duke. Irving per me è stato semplicemente l'uomo giusto al momento giusto e non lo ringrazierò mai abbastanza per quello che ha fatto per me. Sono partito da niente e grazie a lui sono entrato al Cotton Club. Con il Cotton Club arriva per Duke Ellington la fama internazionale. Trasmissioni radio in diretta dal locale e la possibilità di ampliare ogni sera il suo repertorio confezionando sia pezzi ballabili per lo spettacolo che overture, stacchi, accompagnamenti ed effetti jungle sperimentali. E mentre Duke con la sua band che gli starà a fianco per quasi 50 anni, in questo periodo registra oltre 100 brani, il club incomincia ad aprire le porte ai neri. L'hanno chiesto ancora una volta insieme Duke Ellington e Irving Mills, che sulle note del jazz hanno fatto una rivoluzione. Tutto il resto è leggenda. Woke up this morning along about dawn. Without a warning I found he was gone. How could he do it? Why should he do it? He never done it before. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.